Cari radioascoltatori, buonasera e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, in onda come sempre ogni giovedì alle 21. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa, appunto in studio, e da Roberto in regia. Buonasera Roberto, grazie per il supporto questa sera. In collegamento dovrebbe esserci come sempre Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa, buonasera ai nostri amici radioascoltatori. Buonasera, dunque cari radioascoltatori, iniziamo commentando quanto è successo l'8 e il 9 dicembre scorso a Bruxelles, al summit europeo. Il primo ministro inglese David Cameron ha abbandonato uno dei fondamenti della politica estera britannica degli ultimi 50 anni, ossia essere presente nelle istituzioni europee dove vengono prese le decisioni, così da influenzarne l'esito. La Gran Bretagna, come sapete, ha deciso che non farà parte della nuova unione fiscale che è stata appunto lanciata l'8 e il 9 dicembre qui a Bruxelles. Perché questa decisione? Quali sono le implicazioni per la Gran Bretagna e per la stessa Unione Europea? Dunque Alessandra, questo è il tema di questa sera, con chi ne parleremo? Ne parliamo con Bruno Ruffolo. Bruno è già in linea con noi. Ci senti, Bruno? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Bruno è inviato della redazione esteri, collabora con la RAI già dal 1993, ha lavorato come freelance per 5 anni a Gerusalemme, assunto dalla RAI nel 2004, ha seguito importanti avvenimenti internazionali, ora è corrispondente a Bruxelles del giornale Radio RAI. Dunque Bruno, diceva Annalisa in apertura che David Cameron appunto non ha accettato il compromesso della settimana scorsa. David Cameron ha detto di non aver voluto sottoscrivere l'idea di un nuovo trattato perché è contrario agli interessi inglesi. In questo modo però il Regno Unito è confinato in una posizione in cui non può più esercitare influenza, o sbaglio? Non è marginalizzato? Lo è, tanto che in effetti poi Cameron ha tentato in qualche modo non di ridimensionare la scelta fatta, ma di collocarla in un contesto diverso. Ha subito detto: comunque noi restiamo all'interno dell'Unione Europea, continuiamo a prendere le nostre decisioni e a cercare di influenzare quelle dell'Unione Europea in generale. Però è chiaro che siamo di fronte ad una situazione molto, molto evidente, cioè da una parte ci sono 26 paesi, anche se la notizia di oggi, Ungheria e Repubblica Ceca in qualche modo hanno detto attenzione, noi ci stiamo al piano, al patto per una maggiore disciplina di bilancio, però attenzione che se volete arrivare a regole fiscali, cioè tasse uguali per tutte in Europa, noi non ci stiamo. Quindi oggi c'è stato anche un distinguo da parte di queste due nazioni. Dicevo, la Gran Bretagna comunque resta all'interno di questo provvedimento, all'interno di questo quadro, ed infatti oggi, ed è sempre di oggi la notizia, la Gran Bretagna è stata invitata come osservatrice ai negoziati che da qui fino a marzo, che dovrebbe essere la data limite entro il quale poter firmare questo accordo intergovernativo tra 26 stati per una maggiore disciplina di bilancio con regole chiare per tutti, ebbene, come dicevo, la Gran Bretagna è stata invitata a partecipare a questa trattativa. Quindi è evidente che c'è una dinamica diplomatica all'interno di questa situazione, non c'è una rottura vera e propria, però è chiaro che la Gran Bretagna si è messa in una situazione difficile. È stato molto chiaro ieri il leader dei liberali all'Europarlamento, Verhofstadt, l'ex appunto premier belga, che ha detto attenzione, Cameron ha fatto il più grande errore della sua vita, perché ha citato questa frase che è un proverbio inglese, attenzione, quando ci si siede ad un tavolo bisogna sapere esattamente che cosa si è, se si è commensali o parte del menù. Insomma, ha voluto dire attenzione Cameron, ti sei messo in una brutta situazione, rischi di rimanere isolato. E posizioni del genere poi ci sono all'interno anche della Gran Bretagna, perché è vero che ci sono gli euroscettici, che gli estremisti conservatori, che in questa fase dicono ecco, questa è l'occasione giusta per fare un referendum e uscire dall'Unione Europea, ma c'è anche una parte della vita politica britannica, ad esempio i liberali come Clegg, che è il vicepresidente, il vice primo ministro, che dicono: attenzione, noi dobbiamo continuare ad avere rapporti con l'Unione Europea. Non dimentichiamo che il 60% dell'economia britannica ha uno sviluppo all'interno dell'Unione Europea, quindi l'interdipendenza è totale. Sembra difficile che l'Unione Europea possa fare a meno della Gran Bretagna e la Gran Bretagna possa fare a meno dell'Unione Europea. Bruno, secondo te appunto questa decisione quali implicazioni può avere nei rapporti nella coalizione di governo inglese, nei rapporti appunto tra il Partito Conservatore e i liberal democratici di Nick Clegg? Può avere fortissime implicazioni, tanto che ci sono scenari di osservatori, di giornali britannici che ipotizzano una caduta del governo, che non è da escludere, però a giudicare dalle prese di posizione che ha avuto Cameron da quel giorno, dal venerdì mattina, perché ricordiamo il vertice poi alla fine si è concluso con una maratona negoziale incredibile alle 6:15 del mattino, da quel giorno in poi Cameron non si è mai in qualche modo rimangiato la decisione, assolutamente, però ha avuto parole in qualche modo concilianti: dobbiamo restare dentro. Quindi insomma è chiaro che la posta in gioco è molto alta, anche perché la stampa, molti osservatori economici continuano a dire: attenzione, se rimaniamo isolati su questi temi l'economia britannica può avere delle gravi conseguenze. Bruno, diverse sono state le critiche, ovviamente però anche gli applausi sulla stampa britannica per la decisione di Cameron della settimana scorsa. Il Financial Times, un giornale su tutti, addirittura boccia il Premier dicendo che in questo modo il Premier non protegge gli interessi della City. Dunque cosa significa? Che gli interessi della City si proteggono solo accettando il compromesso? Allora, cerchiamo di spiegare qual è la situazione. Cameron aveva chiesto come condizione per non porre il veto a questo patto cosiddetto fiscale che ci fossero sostanzialmente una sorta di mani libere per la Gran Bretagna su una serie di regolamentazioni dei servizi finanziari che l'Unione Europea sta portando in questa fase avanti. Perché? Perché in Unione Europea c'è chiara la consapevolezza che la crisi del 2008, la grande crisi economica del 2008 nata negli Stati Uniti, sia il frutto di un comportamento eccessivo e troppo speculativo di alcuni settori della finanza internazionale. Quindi da allora si è proseguito su una strada di voler regolamentare, dare delle regole. Allora è chiaro che in una economia come quella britannica, dove circa il 20% si svolge sui servizi finanziari, per Londra che dopo New York è la vera capitale della finanza internazionale, è chiaro che tutte le regole che vengono poste sono in qualche modo difficili da digerire. Ricordiamo che su alcune regole, ad esempio sulla tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, si decide all'unanimità, quindi di fatto il veto britannico potrà sempre bloccare questa norma, a meno che non ci sia un accordo di compromesso. Ma su molte altre regole, ad esempio le vendite allo scoperto, il fatto di non poter più vendere dei prodotti finanziari senza possederli oppure in maniera estremamente speculativa, su questo si può decidere anche a maggioranza qualificata. Quindi è chiaro che la Gran Bretagna può ritrovarsi in una situazione di decisione su questi temi assolutamente isolata e le decisioni passerebbero comunque. Questo è il punto su cui Cameron ha molto insistito. Per questo ha detto: noi vogliamo difendere gli interessi del nostro paese. Quindi questa è la situazione. In gioco ci sono forti interessi economici perché, lo ripeto, gran parte dell'economia britannica è impostata sui servizi finanziari e Londra è il cuore di questi servizi finanziari. Bruno, secondo te quali sono invece le implicazioni per l'Unione Europea di una Inghilterra il cui ruolo e forse voce diminuiranno? C'è chi ha per esempio scritto che in queste condizioni l'Unione Europea sarà forse meno incline a rafforzare il mercato comune, di cui appunto la Gran Bretagna è stata grande sostenitrice, e forse più incline, come dire, a guardare dentro i pochi, dentro i propri confini. La Gran Bretagna ha contribuito molto alla politica estera dell'Unione Europea e anche incoraggiato la UE, per esempio, a vedere la globalizzazione come una opportunità e non come una minaccia. Tu che cosa ne pensi? Non c'è dubbio che sulla politica estera un'Unione Europea senza la Gran Bretagna è un po' difficile da immaginare, nel senso che lo abbiamo visto anche nella situazione di pochi mesi fa della Libia, che le iniziative sono state prese da Gran Bretagna e Francia. È chiaro che sulla politica estera la Gran Bretagna ha una linea che è difficile obiettivamente farne a meno in un'Europa così debole dal punto di vista di una posizione unitaria sui temi internazionali. Beh, sul resto anche è difficile immaginare un'Unione Europea senza la Gran Bretagna, però mi pare che si vada verso una situazione in cui forse non tutto si potrà fare a 27 come si è fatto finora, probabilmente si va verso una situazione in cui su singoli temi si raggiunge non l'unanimità, ma si va avanti con le cosiddette cooperazioni rafforzate, cioè quel meccanismo dell'Unione Europea che consente a almeno 10 stati d'accordo su qualcosa di poter andare avanti su quella strada malgrado l'opposizione degli altri stati. Questa è una possibilità che dà in qualche modo di andare avanti con quello che si intende in gergo la cosiddetta Europa a due velocità, però è chiaro che forse su alcuni temi è difficile andare avanti all'unanimità 27, forse su alcuni temi unanimità poi di fatto significa paralisi, e quindi questo va molto tenuto in conto. Quindi secondo me è tutto da vedere l'atteggiamento che avrà ancora la Gran Bretagna da qui a marzo, quando il trattato, questo accordo tra governi per queste regole strette di disciplina di bilancio sarà messo nero su bianco. Per ora stiamo nella fase della trattativa diplomatica e lo ricordo, come ho già detto prima, la Gran Bretagna è stata invitata come osservatrice a sedersi al tavolo di questo messa a punto dell'accordo, del patto nero su bianco. Quindi vedremo che cosa succederà. Molto dipende anche dall'evoluzione della crisi economica. Stiamo andando verso una recessione che, a giudicare anche dalle stime che sono state fatte oggi, nel 2012 sarà molto pesante, e quindi è difficile oggi immaginare esattamente gli scenari che ci saranno tra qualche mese. Dunque, Bruno, per terminare volevo fare una battuta. C'è l'Independent britannico che scriveva: puntiamo a diventare come le isole Cayman, ma con un clima molto peggiore. Dunque, forse è ancora presto per dirlo. Come giustamente tu hai detto, bisogna aspettare e vedere i negoziati come proseguono, soprattutto questi incontri diplomatici da qui a marzo. Di cosa ne potranno cambiare parecchie? Sì, potranno cambiare certo il clima generale. Anche oggi si è visto nelle dichiarazioni che ci sono state, c'è una fortissima vena polemica tra Gran Bretagna e Francia, che ha avuto un po' così l'immagine plastica durante il vertice, quando, così come hanno mostrato bene le telecamere, in qualche modo mentre si incrociavano attorno al grande tavolo della sala del Consiglio europeo Nicolas Sarkozy e David Cameron, è sembrato che Sarkozy non accettasse la stretta di mano che gli proponeva Cameron. Quello ha in qualche modo esemplificato un po' questo grande contrasto polemico che c'è in questi momenti tra Francia e Gran Bretagna. Però la politica, poi la diplomazia e le trattative europee sono fatte così, sì. Tutto può cambiare, quindi secondo me ancora da vedere. Certo, mi pare difficile immaginare che la Gran Bretagna rinunci ad alcune salvaguardie per i mercati finanziari, così come ha sempre fatto negli ultimi anni. Quindi non so, mi pare difficile, mi pare che ci possa essere una volontà di arrivare ad un compromesso, ad evitare lo scontro. Sui temi concreti, sulla come poter arrivare a questa soluzione di compromesso, mi sembra un po' più difficile, però sappiamo benissimo che i negoziatori, coloro che fanno queste trattative, hanno una fantasia enorme, quindi non lo escluderei un compromesso dell'ultima ora, magari anche un compromesso in qualche modo un po' al ribasso o con qualche tentativo, ma non lo escludo che alla fine a marzo la Gran Bretagna possa mettersi in una posizione meno di esclusione rispetto a quella di oggi. Dunque è un compromesso all'europea in sostanza. Potrebbe esserci, perché no? Perché comunque è evidente che l'interdipendenza tra Gran Bretagna e Unione Europea c'è, è indubitabile, lo sanno sia l'Unione Europea, lo sa sia l'Unione Europea che la Gran Bretagna. Penso che forse ci sia in corso una partita per alzare la posta, però è anche vero che Gran Bretagna, che Germania e Francia vogliono andare ben determinate verso questo patto a marzo, quindi non so se ci potranno essere in qualche modo trattative che possano allungare i tempi di un accordo finale, insomma, mi pare difficile, però non escluderei una soluzione di compromesso. Bruno, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, siamo arrivati in conclusione al tuo intervento. Ci sono altre domande, Annalisa, dalla regia? No, qui dallo studio della regia non ci sono altre domande, anch'io vorrei unirmi al ringraziamento a Bruno per il suo interessante contributo alla trasmissione di questa sera, buon lavoro e speriamo di riaverti presto come ospite a Giro di Boa. A presto. Va bene, buona serata a tutti, a voi e agli ascoltatori. Buona serata e grazie ancora. Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque, come avete sentito, ci siamo occupati nella prima parte della trasmissione del summit qui a Bruxelles, summit europeo dell'8-9 dicembre, che ha visto la nascita di una unione fiscale, lanciata però senza la partecipazione dell'Inghilterra. Abbiamo commentato questo con Bruno Ruffolo, corrispondente di Radio Rai qui a Bruxelles. Alessandra, ora è giunto il momento di lanciare il secondo tema di questa puntata. Sì, esatto, Annalisa, il secondo tema di questa puntata. Cerchiamo di ripercorrere cosa è successo negli ultimi 12 mesi. Come i nostri amici radioascoltatori sapranno, il 17 dicembre del 2010 Mohamed Bouazizi, un giovane e poverissimo ambulante tunisino, esasperato per le angherie della polizia locale che gli aveva fatto rimuovere il chiosco che gli forniva le poche risorse con cui tirava a campare, decise di darsi fuoco davanti alla prefettura. Questa fu la scintilla che diede il via alle primavere arabe. Dopo neanche un mese dalla morte del giovane tunisino, Ben Ali, presidente tunisino, scappava in Arabia Saudita. In questi 12 mesi abbiamo assistito alla caduta di Mubarak, all'inizio del suo processo, alla guerra contro Gheddafi, alla sua esecuzione, alle elezioni in Marocco, in Tunisia, in Egitto, ai bagni di sangue in Siria, a nuove speranze per le donne in Arabia Saudita che chiedono di poter guidare l'automobile, a grandi manifestazioni e proteste in Egitto e in Yemen, a timide manifestazioni in Oman, a repressioni in Bahrain, solo per citare alcuni dei principali eventi. Denominatore comune è l'uso di tecniche di resistenza civile, come scioperi, manifestazioni, marce e cortei, talvolta anche atti estremi, come suicidi, così come l'uso di più comuni social network, che aiutano ad organizzare, a comunicare e a divulgare. Questa sera vorremmo tentare con i nostri ospiti di fare un timido bilancio di questi ultimi 12 mesi, che hanno portato grandi cambiamenti nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente. Annalisa, ci vuoi presentare i nostri due ospiti che sono già in collegamento con noi? Sì, dunque, buonasera ai nostri due ospiti. Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, cura la videorubrica Voci del Vicino Oriente. Antonio, buonasera, bentornato a Giro di Boa. Buonasera a voi, eccomi qua. E abbiamo in collegamento anche Silvia Colombo. Silvia è ricercatrice presso l'Istituto Affari Internazionali a Roma per il programma Mediterraneo e Medio Oriente e ha curato l'Africa Mediterranea, Storia e Futuro. Buonasera Silvia e benvenuta. Buonasera, grazie e buonasera ai radioascoltatori. Dunque, Antonio, Silvia, un anno fa sicuramente nessuno si aspettava che nel mondo arabo si potessero verificare cambiamenti di tale portata. C'erano forse dei segnali che non sono stati colti? Antonio, tu che cosa ne pensi? Sì, io credo di sì. Questi segnali c'erano, non erano così indicativi, così evidenti, ma probabilmente o sono stati colti in ritardo o non sono stati colti. Sappiamo di studi fatti per esempio dai grandi think tank americani che avevano tutti gli elementi per comprendere che sarebbe esploso qualcosa di importante, però come sempre succede queste cose poi avvengono per un'esplosione, come dire, non prevista, dovuta a un elemento occasionale. E il sacrificio di Mohammed Abu-Zizi io credo che possa essere paragonato a quello di Jan Palach tanti anni fa in Cecoslovacchia, nell'allora Cecoslovacchia, quando il sacrificio di questo ragazzo che protestava contro l'aggressione da parte dei sovietici, delle libertà che stava cercando di costruirsi la Cecoslovacchia, beh, in fondo fa il pari con quello che è accaduto in Tunisia, quando un ragazzo che era stato privato della sua licenza di ambulante e rischiava appunto di voler perdere l'unica fonte di sostentamento sua e della sua famiglia, decide di darsi fuoco. Ecco, l'elemento occasionale è questo, ma è chiaro che qualcosa covava da tempo perché era impossibile poter pensare che il Nord Africa, il Medio Oriente, i paesi arabi potessero continuare a vivere in una situazione così di miseria nonostante così gli elementi, le statistiche internazionali parlassero di una crescita più o meno costante in quasi tutti i paesi, ma queste statistiche a volte hanno un significato assolutamente relativo e la realtà era che questi paesi, anche condizionati e anche colpiti e anche vittime della crisi che stava cominciando a svilupparsi in maniera drammatica nella sponda nord del Mediterraneo, cioè la crisi finanziaria ed economica che ha coinvolto tutti noi, beh, in fondo aspettavano soltanto un elemento per esplodere e queste crisi sono esplose tutte assieme. Il fatto che da parte nostra ci sia stata meno possibilità di procedere a un'effettiva cooperazione e anche a quel flusso di aiuti che aveva consentito a molti di questi paesi di andare avanti, beh, insomma, questo ha segnato un infarto, un collasso che poi favorito dai social media, favorito dalla globalizzazione della comunicazione, oltre che delle informazioni, ha creato quello che stiamo vedendo, che non è ancora finito, che non sappiamo quando finirà. Silvia, secondo te quali erano i segnali che si potevano... Ma io sono perfettamente d'accordo con Antonio e vorrei solo aggiungere che parte del motivo per cui non siamo stati in grado di prevedere e di comprendere, soprattutto all'inizio, quello che stava succedendo, che è ancora in corso nella regione, è dovuto al fatto che molti dei nostri rapporti da parte dei governi, da parte di dei nostri, diciamo, rappresentanti delle imprese, del mondo economico, erano appunto rapporti con i regimi in carica in Tunisia, in Egitto, in Siria, anche se in misura maggiore, in Libia. E questo ci ha impedito proprio di capire che a livello della società, a livello, diciamo, delle parti più basse, ma comunque molto vive della società, qualcosa si stava muovendo da parecchi anni. Non dimentichiamo che per esempio appunto in Egitto, in Tunisia c'erano state forti ondate di scioperi già a partire dal 2006-2008 e quindi si tratta di un processo che deve essere letto all'interno di una dinamicità, di una crescita, di una presa di coscienza da parte della popolazione, che appunto si sono trovate in una condizione diciamo esasperata, sia per motivi economici, come giustamente sottolineava Antonio, è una congiuntura economica particolarmente difficile, ma soprattutto diciamo la rabbia e la frustrazione sono esplose contro una situazione politica deteriorata, autoritaria e soprattutto la grande pervasività della corruzione e del clientelismo in tutta la regione. L'Europa e l'Occidente in generale hanno guardato con molta apprensione agli eventi che hanno riempito le piazze nel Maghreb. Apprensione perché? Perché c'erano regimi non forse democratici, ma che assicuravano senz'altro stabilità nei rapporti economici oltre che nella regione. Quali erano le più grandi paure dell'Europa ed erano giustificate? Silvia? Ma mi sembra che appunto proprio direttamente da quello che ho detto, appunto questi regimi erano i nostri partner nel cercare di garantire una stabilità e la sicurezza, nel preservare certi interessi che, come ben sappiamo, erano soprattutto interessi di natura economica, interessi energetici, di controllo del territorio anche, per esempio contro flussi indesiderati di migrazione. E nei primi mesi, durante le proteste in piazza Tahrir in Tunisia, abbiamo visto appunto un miscuglio, un insieme di sensazioni anche abbastanza contrastanti e di voci contrastanti da parte dei governi europei, degli Stati Uniti, cioè un incoraggiamento da una parte nei confronti di questi giovani, di queste generazioni che si sollevavano contro i dittatori, ma anche chiaramente la preoccupazione che questi interessi e la stabilità generale dell'area fossero messi in pericolo. E lo si è visto per esempio nel caso della questione della migrazione, il controllo dell'Europa, delle frontiere europee di fronte all'ondata migratoria di paesi, di persone provenienti dal Nord Africa. Dopo un'iniziale situazione chiaramente di emergenza, di anche mancanza di preparazione ad accogliere e di consenso tra i partner europei, si è comunque, mi sembra che tutto si è un po' ridimensionato e ci si è giustamente concentrati su altri aspetti, per cui appunto il processo politico è in corso in questi paesi e non necessariamente lo sconvolgimento degli equilibri come inizialmente ci si aspettava, insomma. Antonio, quali erano secondo te le più grandi paure dell'Europa? Ma le paure erano tante. Silvia, che io stimo molto perché è un'analista estremamente attenta, ha detto una cosa chiave prima. Ha detto che in effetti noi, i nostri rapporti, i rapporti degli Stati, per quanto contino gli Stati, ma gli Stati fino a poco tempo fa erano importanti, forse oggi vediamo altri soggetti che forse non abbiamo ancora ben identificato come i nuovi padroni del mondo, ma gli Stati di allora avevano rapporti con i regimi e giustamente Silvia parlava di questo, parlava di rapporti così di affari con gli Stati, quindi con i governi, anche governi autoritari. Parlo di tutti gli stati e non soltanto degli europei, non dimentichiamo che Mubarak una settimana prima così dei fatti di piazza Tahrir, Mubarak era stato considerato dagli Stati Uniti e dall'Europa, e lo era in realtà un elemento di straordinaria stabilità, era quello che aveva consolidato l'accordo di pace firmato da Sadat con Begin, accordo di pace con Israele, pace fredda ma comunque sempre pace. C'era stabilità, c'erano affari, c'era controllo di quello che, per quello che tutto va estremamente storicizzato, era ritenuto per tanti anni il pericolo numero uno, cioè il fondamentalismo legato al terrorismo, cosa che ci ha portato poi a delle aberrazioni pazzesche, quella di pensare di far sentire con una serie di predicatori che hanno detto queste cose reiterandole e quindi facendole diventare quasi una verità, così all'equazione musulmano uguale terrorista. Questa è stata la cosa infame di quegli anni, della quale ancora paghiamo le conseguenze. Però al di là di questo, questa era la situazione, ecco perché ogni situazione è in pratica figlia del suo tempo. Oggi siamo davanti a una cosa diversa. Come diceva giustamente Silvia prima, noi stiamo acquisendo lentamente con le nostre difficoltà, anche perché, ripeto, non c'è più il flusso di denaro che arrivava dall'altra parte del Mediterraneo. Abbiamo avuto la grande delusione delle speranze create a Barcellona con quello che doveva diventare un partenariato strategico. Oggi si sta cercando, nonostante questa crisi planetaria pazzesca, si sta cercando di salvare quello che si può salvare e di trovare nuova linfa per ricominciare. E quindi le paure dell'Europa, che esistevano proprio per la caduta, ogni volta che si passa da un periodo storico a un altro, da una fase a un'altra, ci sono gli ultraconservatori che hanno paura di qualsiasi cambiamento, i progressisti che pensano addirittura a un'accelerazione. Con elezioni che hanno dato un risultato importante, quale quello appunto della vittoria del partito islamista che dall'opposizione passa appunto al governo, però non penso che sia un grandissimo cambiamento, le stesse trasformazioni, gli stessi cambiamenti nella Costituzione sono abbastanza come dire, contenuti e chiaramente non vanno più di tanto a modificare il quadro generale dei rapporti di potere tra la monarchia, tra il gruppo che come dire, ruota intorno al sovrano Mohammed VI e gli altri gruppi. Perché appunto comunque il partito islamista era già nella sfera, in certo senso anche cooptato dalla monarchia. Il processo in Egitto è soltanto all'inizio, si sono svolte in questi giorni il secondo round delle elezioni, sappiamo che ce ne sarà un terzo a gennaio e quindi è un processo molto aperto, molto più complicato proprio per le stesse regole istituzionali del processo elettorale e soprattutto perché l'Egitto è un paese molto più complesso per le sue diversità religiose, per l'ampiezza del territorio, per la numerosità della popolazione e per anche la storia che questo paese ha. Antonio? Io dico una cosa, ho seguito con molta attenzione quanto diceva Silvia e condivido. Volevo aggiungere una cosa, vedete, i risultati di queste prime elezioni, prime che poi non è vero come diceva Silvia, perché in Marocco, in Tunisia, in Egitto, sia pure in quelle situazioni che conosciamo, si è sempre votato, è chiaro che i limiti erano grandi, è chiaro che molti islamisti, molti partiti erano... molti leader erano praticamente all'indice, se non al confino, se non in esilio. Però per tornare alla vostra domanda iniziale, c'erano degli elementi legati anche alle paure dell'Europa, alle paure dell'America, alle paure dell'Occidente, alle paure nostre. Allora si puntava alla stabilità. Stabilità significava non avere sorprese, diciamo, con movimenti islamici troppo duri e cose di questo genere. L'elemento che avrebbe dovuto far pensare, soprattutto l'Occidente e in particolare gli americani, era già evidente alle elezioni palestinesi del 2006, in Palestina appunto, quando gli americani premettero in maniera veramente notevole perché si svolgessero nella convinzione che le avrebbe vinte Fatah, cioè le avrebbero vinte i laici, e sarebbe stata una dura sconfitta per Hamas. In effetti è capitato il contrario, non solo Hamas stravinse le elezioni esattamente come le vinse il FIS in Algeria, non ce lo dimentichiamo anche questo, poi dopo il FIS ci fu un contraccolpo di Stato, colpo di Stato e controcolpo di Stato, per cercare di annullare la vittoria del FIS. E Hamas sappiamo che si è avuto lo split tra l'ANP diciamo con base a Ramallah e Gaza in mano ad Hamas. Quindi alcuni elementi erano chiari. Oggi che cosa assistiamo? A una vittoria generale di movimenti islamisti che soprattutto in Egitto, in Tunisia, si richiama neanche Marocco, nominalmente persino, al partito che ha vinto le elezioni in Turchia, il partito della giustizia e dello sviluppo islamico moderato guidato da Recep Tayyip Erdogan, leader di un paese che sta diventando di fatto la potenza egemone nel Mediterraneo, sia per ragioni economiche, sia per ragioni di politica estera e sia per ragioni di passaggio dei corridoi energetici. Sappiamo che un passaggio a volte è più, ha un vantaggio economico più forte o quasi forte quanto la produzione. Ma quello che può essere l'elemento preoccupante che ci deve far pensare sono l'intervento di forze di paesi, magari alleati dell'Occidente o amici dell'Occidente come l'Arabia Saudita, che hanno finanziato e favorito l'organizzazione di queste forze che hanno vinto le elezioni, perché curiosamente le forze che hanno vinto le elezioni dappertutto, in particolare in Egitto, il caso dell'Egitto è fondamentale, e non sono state le forze laiche che forse erano la naturale espressione, la naturale proiezione politica del movimento di Piazza Tahrir dominato da un certo sincretismo, ma le forze vere organizzate anche grazie all'intervento dell'Arabia Saudita, la quale, Arabia Saudita non dico lo Stato, parlo di sauditi ricchi, i quali stanno finanziando anche movimenti salafiti sia in Egitto, quindi Islam molto più radicale, sia in Libano e sia in altri paesi, forse per disegnare le coordinate di quello che potrebbe diventare, mi scuso di fare una previsione, devo dire non certo rassicurante, il conflitto del futuro, cioè il conflitto nel mondo musulmano tra sunniti e sciiti. Speriamo di no, però alcuni elementi anche di inquietudine non dobbiamo dimenticarli e dobbiamo sempre tenerli in considerazione. Antonio, tu hai anticipato la mia prossima domanda, infatti volevo sapere cosa pensavate voi del ruolo dell'Arabia Saudita. Antonio ci hai accennato al ruolo di alcuni ricchi sauditi, io avrei voluto sapere il ruolo dell'Arabia Saudita in quest'anno nel mondo arabo e quale futuro per questa monarchia assoluta che ha la maggior parte dei leader ammalati oppure con un'età molto avanzata e dunque presumibilmente che non resteranno al potere per lungo tempo. Antonio, l'Arabia Saudita è un regime? Brevemente volevo soltanto ricordare questo. Sì, è vero, in effetti in Arabia Saudita c'è una leadership contraddizione orizzontale, non contraddizione verticale. Quindi siamo tra coetanei che si scambiano le portone più importanti del potere. Oggi sappiamo appunto che è morto un personaggio chiave, che era Sultan. Sultan era un elemento, se si vuole, un pochino più moderato all'interno della leadership del regno. E oggi il numero due, difatti, l'erede è diventato Najaf, che era ministro dell'interno e che è il personaggio assai più radicale. Prima, quando ho parlato di ricchi sauditi, non è che il ricco saudita agisca per sé all'insaputa del governo, all'insaputa del vertice. Io credo che ci sia l'intenzione di accentuare quella che è l'islamizzazione dell'intero mondo arabo sunnita e da parte dell'Arabia Saudita con tutti i mezzi possibili. E questo per un paese alleato degli Stati Uniti, alleato dell'Occidente, beh, in fondo è una sfida che l'Occidente non dovrebbe accettare passivamente, ma dovrebbe interloquire. Va bene il petrolio, vanno bene gli interessi, vanno bene i miliardi di dollari o di euro, ma insomma ci sono delle cose che hanno a che fare con la stabilizzazione di un'area per noi fondamentale, sono i nostri dirimpettai, con la quale non solo dobbiamo fare i conti, ma dovremo come sempre trovare una via di dialogo, una via di accordo, una via quasi di alleanza strategica, e questa è la scommessa per il futuro. Silvia, anche tu vedi una regia saudita dietro le... Ma sì, sicuramente c'è, cioè, magari sicuramente appunto anche in questa aumento della complessità nel campo islamista, con fazioni più moderate, fazioni più radicali, e una profonda frammentazione, per cui appunto, come diceva Antonio, è vero, il rischio è che sempre di più ci sia diciamo, si possa arrivare ad un aumento della tensione, o comunque della contrapposizione tra varie fazioni, vari gruppi, partiti che si ispirano comunque ad una interpretazione religiosa anche del mandato politico in maniera più o meno radicale. E dietro questo sicuramente l'Arabia Saudita ha cercato di giocare un proprio ruolo, proprio anche per cercare di tamponare in un certo senso il possibile estendersi anche all'area del Golfo degli influssi della primavera araba. L'abbiamo visto fin dall'inizio della crisi in Yemen, in Bahrain, come appunto la regione del Golfo è stata investita, e anche se in maniera meno profonda, almeno fino a questo momento. Non sappiamo cosa potrà succedere, perché si tratta comunque di paesi, come ricordava giustamente Antonio, anche abbastanza fragili, costruiti su dei rapporti di potere complessi, ma comunque appunto in cui c'è una grossissima divisione tra la casa regnante, il grosso, la famiglia reale e l'entourage, e il resto della popolazione, che spesso appunto anche etnicamente o dal punto di vista religioso non appartiene allo stesso gruppo. Quello che volevo dire è che appunto oggi il Consiglio di Cooperazione del Golfo, i paesi del Golfo sono un attore molto molto importante nel Mediterraneo, lo saranno probabilmente sempre di più, accanto sicuramente alla Turchia, e forse ruberanno spazio anche all'Unione Europea e ai paesi europei, se questi non saranno pronti, come diceva Antonio, a cogliere la sfida che proviene dal Mediterraneo del Sud. E lo si vede per esempio nel tentativo anche di estendere gli influssi della diplomazia del Golfo attraverso l'invito formulato nei confronti di Giordania e Marocco a unirsi a questo gruppo delle monarchie conservatrici, quindi a creare in questo modo un baluardo, un gruppo appunto molto omogeneo di monarchie che vorrebbero cercare di rimanere immuni dai fermenti rivoluzionari, dalle proteste, dai cambi di regime, rispetto appunto alle repubbliche Tunisia e Egitto in primis, che abbiamo visto cadere, i cui regimi abbiamo visto cadere in questo anno. Antonio, Silvia, vorrei farvi una domanda sulla Siria. Che cosa sta succedendo realmente nel paese, dopo le sanzioni che sono state imposte dalla Lega Araba, dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea? Dopo le sanzioni, che cos'altro può fare la comunità internazionale? Qual è lo spazio di manovra? Antonio. Non molto, purtroppo. Bisognerà avere molta pazienza con la Siria e speriamo che la situazione si risolva senza un nuovo bagno di sangue. Io quello che spavento, temo, soprattutto per la Siria che ha un regime laico, regime retto da una minoranza, la minoranza alawita da 42 anni, e alawiti che sono una setta sciita in odor di eresia, tra l'altro, neanche una setta sciita accettabile. Questo spiega il rapporto molto stretto con l'Iran, però non va molto oltre, e con un atteggiamento politico che mi pare in qualche momento assolutamente incomprensibile. Bashar era arrivato al potere forse neanche sapendo che ci sarebbe arrivato, soltanto perché il fratello che era stato designato come futuro presidente in questa specie di dinastia di repubbliche ereditarie, che fa un po' sorridere, ma da quelle parti è un po' così, Bassel morì in un incidente stradale, e allora Bashar, che era un oftalmologo e viveva a Londra, bello tranquillo, si ritrova a Damasco a studiare da presidente e diventa presidente. All'inizio voleva essere riformista, adesso non ho ancora ben capito. se sia ormai prigioniero del clan familiare degli Alawiti, oppure se sia lui, diciamo, il motore di questa, di questo atteggiamento che è praticamente inaccettabile. Perché è vero che il regime alawita è l'unico regime laico che rimane nella regione e che quindi va considerato come tale, ma la Siria rappresenta una serie di problemi importanti, il rapporto con l'Iran, l'alleanza con importanti propaggini sia in Libano sia in Palestina, Hezbollah in Libano e Hamas in Palestina, la Siria che sta sulla testa di Israele, quindi con tutti i problemi che ci possono essere con lo Stato ebraico, e il fatto che una caduta del regime potrebbe significare una forte voglia di rivincita da parte della stragrande maggioranza sunnita, ma quello non è che deve preoccupare oltre misura, preoccupa semmai all'interno della maggioranza stragrande sunnita quella componente, diciamo, estremista che non vede l'ora di vendicare la strage di Hama dell'82, 20.000 morti e quello che è accaduto quest'anno. Ecco perché la Siria rappresenta davvero un problema estremamente importante per il futuro del Medio Oriente. Un crollo non controllato della Siria sarebbe esiziale, però del resto il regime non può andare avanti in questo modo e quindi da un certo punto di vista c'è la speranza che ci sia una transizione alla fine di questo regime la più tranquilla possibile, la meno drammatica per il futuro del Medio Oriente. Lasciatemi aggiungere una cosa di carattere religioso che avevo dimenticato prima, che mi pare molto significativa. Pensate all'Arabia Saudita. In Arabia Saudita un cristiano, un credente, non ha delle grandi possibilità di poter partecipare ai suoi riti, andare alla messa, eccetera, proprio per le proibizioni, no, che arrivano da questo paese dove c'è un'unicità, diciamo, di fede musulmana e anche molto rigorosa. Però l'Arabia Saudita rischia di dover cambiare per forza. Immaginate che soltanto i lavoratori stranieri, che sono tantissimi in Arabia Saudita, che fanno i lavori dai più umili, anche i lavori medi che i sauditi non vogliono più fare, ci sono almeno 1,5 milioni, 2 milioni di cattolici che arrivano dalle Filippine, dai paesi vicini e che, se non altro, non soltanto per appartenenza religiosa, ma per voglia di espressione identitaria, vogliono avere la possibilità di andare in una chiesa e di seguire i loro sacramenti e i loro riti. E questo diventerà veramente una grande sfida per i sauditi. Qualche cosa hanno già cercato di cambiare, ma non è ancora sufficiente, non basta. Il paese più oscurantista, purtroppo, è il paese che sembra il più amico dell'Occidente, soprattutto degli Stati Uniti, per ragioni petrolifere, come ben sappiamo. Annalisa, c'è ancora il tempo per sentire la risposta di Silvio? Siamo già in conclusione. In 30 secondi, un'ultimissima battuta, Silvia, siamo in chiusura. Sì, no, appunto, sulla Siria sicuramente la situazione è drammatica e non c'è molto margine di manovra per l'Europa, gli Stati Uniti, le potenze esterne. Forse un'unica cosa che si potrebbe fare è chiaramente incoraggiare e sostenere in maniera convinta il Consiglio Nazionale Transitorio, cercando in qualche modo di rubare terreno sotto i piedi anche al regime, ai fedelissimi del regime, che in qualche modo un crescente sostegno dell'Unione Europea, per esempio, nei confronti del Consiglio Nazionale Transitorio potrebbe indebolire appunto questo supporto.